Le ragioni della poesia, primo incontro di letture con alcuni poeti, parte giovedì 18 gennaio, quindi domani, al Teatro di Villa Torlonia. Sì, 18:30. allora intanto spieghiamo come nasce questo progetto. Nasce innanzitutto da una mia lunga consuetudine, almeno tra gli anni 70 e 95, quasi fine 2000, di fare delle letture in vari luoghi, teatri, gallerie, eccetera, e non solo a Roma, come delle antologie orali, quindi la poesia italiana, la maggiore, quella che io in cui io credo di più, che si esprime attraverso una serie di poeti che leggono dei loro versi. C'è un intervallo musicale, c'è anche una giovane attrice, domani una giovane attrice, ci sarà sempre dell'Accademia, della Scuola del Teatro di Roma, che leggerà poesie di poeti dimenticati o trascurati del Novecento. Tutto qui, un panorama sulla poesia. Le ragioni della poesia sono le ragioni della poesia che diventa sempre più necessaria, c'è sempre una maggiore attenzione. Ed è la poesia che indaga sui sentimenti più profondi, sulle parole più necessarie. Incontra sempre più attenzione la poesia, è questo che avverte, quali sono i segnali? Andando da un trentennio e più per tutte le scuole italiane, dai licei alle scuole elementari, aperto anche in un grande pubblico, in qualche modo anche nelle edicole, compra dei fascicoli che riguardano la poesia del passato, quella più recente, e soprattutto dalla crisi del linguaggio, dalla miscredenza che abbiamo verso la lingua della politica e quella dei mezzi di comunicazione, che sono svuotati appunto delle loro necessità, e la poesia ti fa riflettere su quello che invece è più profondo nella parola, è più sentito, è più necessario, è più creduto, più vicino alla verità. Beh, lo dimostrano anche l'enorme importanza che si dà ai cantautori, no? I Sì. quali ogni tanto si avvicinano alla poesia, ma insomma nelle parole però esprimono quello che che il grande pubblico, la massa, si aspetta dalle parole. Com'è oggi, se è cambiata nel tempo, la fruizione della poesia? C'è stato un tempo, e io appartengo anche a una generazione in cui nelle scuole si imparava a memoria molta poesia ed era tutta lì, soprattutto affidata alla memoria. Sta tornando, questo glielo dico recentemente per esperienza delle molte scuole in cui vado, sta tornando questa necessità di dare ai bambini e ai ragazzi la possibilità di imparare a memoria, quindi fermare nella memoria la qualità delle parole e della forma. E la fruizione io credo sia sempre quella, come la poesia ti interessa sempre dei sentimenti basilari che valgono dai poemi omerici fino a oggi. Io naturalmente sono fra quelli che sperano che l'attenzione diventi maggiore, quindi il gusto fa scegliere anche quello che è di grande qualità da quello che è spesso soltanto chiacchiera. Quali sono stati i criteri nella selezione di questi autori e autrici? Beh, la mia esperienza cinquantennale come critico, direi, come qui ha scritto sempre di poesia, della poesia degli altri, è la conoscenza della poesia, soprattutto in questo caso italiana, contemporanea o degli autori viventi. Il criterio è stato naturalmente, non è esaustivo, perché i poeti sono circa 40, ci sono molti che abitano a Roma, ma diversi che vengono da Milano, da Torino, da Firenze, eccetera, la poesia italiana. Naturalmente si potrebbe raggiungere anche altri nomi, ma c'era un numero limitato di incontri per il momento, sono 8 e vanno da gennaio a giugno, e quindi bisognava fermarsi a questi, poi se ne potrebbero aggiungere altri, non è detto che non continui. E cosa esprime la poesia oggi? Quello che dice da sempre, c'è un piccolo, no, è una prosa poetica di Borges che è intitolata I quattro cicli, in cui Borges dice come la poesia, dalla poesia babilonese fino a oggi, si interessa di temi fondamentali che sono appunto l'amore, la morte, l'addio, il ritorno, la guerra. Sono pochissimi temi. E se andiamo in fondo, in tutta la poesia che leggiamo, questi temi ci sono in varia forma. O accennati allusi, oppure sono dei temi fondamentali. quando cambieremo il genere umano, non avremo più i sentimenti che abbiamo, di paura, di illusione, di desiderio d'amore, di paura della morte, e allora forse la poesia sarà altra, ma ancora continua ad essere questa, e verso quella ci rivolgiamo. Io credo, lo dico in sintesi per un pensiero che ho da anni, ma che non è di tanti, non solo mio, che in realtà il poeta riesce ad esprimere quello che tutti abbiamo dentro, ma trova le parole giuste, esatte, necessarie per dirlo. A livello di popolarità ci sono personaggi pubblici che esprimono un ideale poetico, e sto pensando per esempio a quello che è stato e ha rappresentato Alda Merini. Alda Merini è una poetessa notevole, è stata mia amica, ho scritto di lei e me ne sto occupando ancora. Naturalmente ha avuto molto rumore intorno anche per una vicenda privata che riguardava appunto il malinconico nel quale era stata costretta a stare per anni, e poi la panicina in varie sequenze televisive, in vari spettacoli televisivi, questo ha dato popolarità. Ma questo non significa che altri poeti che stanno più in disparte valgono di meno o dicono di meno. Naturalmente mi risulta che molti cominciano a leggere anche certi autori che sono del nostro immediato passato, come Montale, oppure poeti stranieri come Eliot e Oden. Certo, è una minoranza rispetto alla maggioranza che si contenta dei versi della canzone. E dei nuovi fenomeni, per così dire, performativi, sto pensando per esempio a Guido Catalano, l'autore di Ogni volta che mi baci muore un nazista, che va nei teatri e si porta appresso un sacco di giovani. Beh, naturalmente io non sono un grande ammiratore di queste performance, però penso che possano servire ad avvicinare di più a quella che io ritengo sia la poesia, che è qualcosa invece di più profondo, di più nascosto, che richiede anche lo sforzo di avvicinarsi, di riconoscersi dentro quelle interrogazioni più profonde. Naturalmente fanno certamente più rumore queste cose, diventano spettacolo, no? Sì. Come la canzone è diventata spettacolo, non è più affidata soltanto alla bellezza e alla qualità di una voce, ma agli infiniti scoppi intorno di rumori, di luci, eccetera, eccetera. Questo fa parte delle mode di un tempo, ma è un'altra faccenda. Allora, io la ringrazio, ricordiamo l'appuntamento con Le ragioni della poesia da giovedì 18 gennaio al Teatro di Villa Torloni alle 18:30 nel corso anche dei prossimi mesi. Buon proseguimento, in bocca al lupo. Grazie tante, buongiorno. A presto.